Ciao a tutte e tutti, grazie per questa occasione. Un caro saluto da Torino, sono Murat Cinar, giornalista, e cerco di raccontarvi ciò che sta accadendo in Turchia, soprattutto nel mondo dei centri penitenziari. La Turchia risulterebbe il primo paese nella lista della relazione statistica dei centri penitenziari, pubblicata nel 2020 dalla Commissione europea. In che posizione si trova la Turchia? E la posizione in cui si trova riguarda il rapporto tra il numero dei detenuti e la popolazione intera. Quindi in proporzione la Turchia è nella condizione peggiore nella lista europea dal 2013 fino a oggi. Attualmente in Turchia ci sono in totale 266.831 detenuti e detenute. Più del 96% di queste persone sono maschi. 256.231 maschi, 10.600 donne. Nell'84% dei casi si tratta delle persone già condannate, nel 15% delle persone che si trovano nei centri penitenziari invece si tratta della detenzione provvisoria, cosiddetta. La cosiddetta detenzione provvisoria è un discorso molto elastico in Turchia perché le detenzioni provvisorie arrivano anche a una durata di un anno sotto forma di isolamento. Quindi di questo 15,7% possiamo parlare anche del come possiamo definire queste persone come persone quasi condannate. Addirittura alcune sono in attesa delle carte della prima udienza oppure della decisione del giudice se accogliere la richiesta dell'apertura di un processo o meno. Allora, i centri penitenziari sono molto affollati e in effetti per questo la formazione politica che è da più di 15 anni al potere ha costruito dal 2006 al 2021 228 nuovi centri penitenziari. Entro 2022, quindi tra un anno arriveranno 18 nuovi centri penitenziari. E ovviamente anche il numero del personale che lavora all'interno dei centri penitenziari è un discorso molto molto interessante, molto molto delicato perché in ogni centro penitenziario ci sono in media 14-25 persone che lavorano, un numero molto basso, secondo l'ultima relazione della Commissione europea di cui ho parlato prima, e la Turchia anche da questo punto di vista, registra il record negativo praticamente. Avrebbe bisogno di impiegare più persone che dovrebbero lavorare nei centri penitenziari. E questi sono numeri. E non entro in merito a come sia stata gestita la pandemia nei centri penitenziari in modo dettagliato, però specifico una cosa che anche se i partiti della coalizione al governo organizzavano congressi, convegni, ordinari oppure straordinari, comizi in piazza oppure manifestazioni politiche come l'inaugurazione della chiesa di Santa Sofia che è diventata moschea in piena pandemia con 240.000 fedeli che hanno pregato insieme, nonostante il fatto che certe misure non esistano e non valgono per la coalizione al governo, nei centri penitenziari, soprattutto dove ci sono detenuti politici, gli incontri con i parenti e gli avvocati non sono stati fatti per i primi 6 mesi della pandemia e successivamente sono stati fatti, ma sempre attraverso il vetro, in 2 cabine separate, quindi niente all'aria aperta. Quindi non basta che un parente oppure una parente si disinfetti le mani, metta la mascherina, magari anche con la sorveglianza di una guardia per vedere se rispetta le condizioni o meno, non bastano queste cose. Non devono toccarsi, non devono avvicinarsi, non devono essere nella stessa stanza. Quindi le condizioni precedenti, che risalgono al periodo prima della pandemia, non sono state ripristinate. Ripeto a dire che invece, quando si tratta delle manifestazioni e delle politiche della coalizione al governo, non ci sono regole, non ci sono misure. E in questi ultimi 30 giorni, invece, sono arrivate notizie molto negative dai centri penitenziari in Turchia, che hanno attirato l'attenzione su un fatto molto interessante, molto importante. In questi ultimi 30 giorni, in diversi centri penitenziari in Turchia, sono morte 7 persone. Erano tutte queste 7 persone detenute, ok? Quindi condannate. Questa ovviamente ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica e l'Associazione per i diritti umani, IHD, particolarmente presso la sua sede di Diyarbakır, ha organizzato qualche giorno fa, il 24 dicembre, quindi 5 giorni, 5-6 giorni fa, una conferenza in cui ha sottolineato un discorso molto importante. Attualmente in Turchia ci sono più di 1.000 detenuti in condizioni di salute importante, particolarmente 1.605 detenuti sono stati definiti come malati. 605 di questi detenuti hanno una condizione di salute molto, molto precaria. Quindi, secondo il codice penitenziario e gli articoli 16 e 25 di questo codice, possono essere scarcerati sotto condizione, addirittura perdonati con la decisione del Presidente della Repubblica. Ovviamente il Ministero della Giustizia dovrebbe segnalare la condizione di questi detenuti al Presidente della Repubblica. Ma da mesi che l'associazione, insieme alla Commissione parlamentare che fa un lavoro di sorveglianza sui centri penitenziari, preparano relazioni, fanno segnalazioni, ma il Ministero della Giustizia non prende in considerazione il discorso e non segnala niente al Presidente della Repubblica. Per cui 650 detenuti in condizioni di salute molto gravi si trovano in carcere e 1.605 detenuti sono stati diagnosticati come persone malate, hanno una malattia importante. Anche loro meriterebbero la scarcerazione. Inoltre, secondo alcuni casi che diversi giornali hanno identificato e diffuso, come il caso di Bangin Mohammed, che è un contadino curdo della Siria, che è condannato a 6 anni con l'accusa di appartenere a un'organizzazione terroristica, si trovava nel carcere di Iskenderun ed è morto, siamo venuti a sapere che è morto, il 26 novembre. Il 12 di novembre ha incontrato il suo avvocato Mehtap Sert le ha riferito che da un pezzo che il carcere non gli fornisce le sue medicine, quindi rischia di morire. In effetti, 14 giorni dopo è morto. Quindi le condizioni di salute dei detenuti, alcuni sono molto gravi, molto precarie, devono essere scarcerate, ma soprattutto sembra, anzi risulta, che dentro i centri penitenziari la gestione e l'attenzione in merito alla salute dei detenuti è molto molto precaria. E passo a un altro discorso sempre legato a questo tema, è la situazione dell'ex parlamentare Aysel Tuluk, che appartiene al Partito Democratico dei Popoli. Aysel Tuluk si trova in carcere dal 2016, dal mese di dicembre del 2016. E i suoi processi sono in atto e sembra che per via di alcuni problemi che ha avuto in carcere, la sua condizione stia degenerando, stia diventando sempre più precaria. Il dottore del centro di detenzione in cui si trova ha preparato qualche mese fa una relazione per dire che deve essere assolutamente scarcerata e non è idonea per restare in un centro di detenzione, e questo non è stata assolutamente presa in considerazione. L'ex parlamentare è stata visitata dai suoi avvocati e da alcuni parlamentari attualmente che si trovano al Parlamento, e anche loro hanno confermato che le condizioni di salute di Aysel Tuluk sono molto molto precarie. Concludo con un'informazione molto interessante e importante. E la detenzione prosegue anche fuori dai centri di detenzione in Turchia. Ci sono migliaia e migliaia di persone che sono in detenzione domiciliare, agli arresti domiciliari, e non hanno la possibilità di abbandonare il territorio nazionale, e gli viene anche tolto il passaporto. Qualche giorno fa Arif Kojabik, Hasan Köksoy e Turan Kural, questi tre youtuber che lavoravano come reporter per le strade della Turchia e da anni raccoglievano interviste e i pareri dei cittadini in merito alle questioni politiche e economiche che dominano la nostra quotidianità. Questi tre sono stati presi in detenzione provvisoria, il giorno dopo sono stati rilasciati e lì è stata prescritta l'arresto domiciliare. Quindi queste tre persone che davano voce al popolo e creavano un medium alternativo, dato che la televisione in Turchia è totalmente nelle mani del governo e fa proprio un lavoro di propaganda. A queste tre persone è stata tolta la possibilità di lavorare, sono state zittite praticamente e sono state sbattute a casa. E anche a loro è stata tolta la possibilità di lasciare il paese. Quindi la detenzione, la censura e la cultura di prendere in ostaggio le persone continua anche fuori dai muri dei centri di detenzione in Turchia, soprattutto sia dentro che fuori. Vengono colpiti i giornalisti, gli avvocati, giudici, procuratori, parlamentari e tutte quelle forze dell'opposizione che cercano di costruire un'alternativa lottando contro il regime.